E rieccoci qua sulle, su Radio Wombat. Avete sentito la, le novità editoriali Tunue, la casa editrice Tunue, con la presentazione da parte di Vane Santoni, il curatore, dei due titoli L'amore a vent'anni di Giorgio Biferali e Dimentica di respirare, con l'autrice Karine De Martin. Allora, adesso invece noi ci siamo ricollegati per invece affrontare una, quello che avevamo annunciato precedentemente, quindi una radio conversazione, una novità un po' per noi forse da questo punto di vista, quantomeno per il festival, confederalismo democratico e situazione siriana a partire dalla prossima rivoluzione, dalle assemblee popolari alla democrazia diretta. Edizioni BFS di Murre Boccin con l'editore Franco Bertolucci e l'Ateneo Libertario di Firenze. Vi do il benvenuto e lascio la parola a Bricco. Sì, è vero, una novità le radio, queste radio presentazioni e radio conversazioni, anzi sono, diciamo, chi non ha trovato spazio poi nei tavoli frontali presso la polveriera ha l'opportunità di poter presentare e conversare su Radio Wombat, su queste frequenze. Quindi abbiamo qua nel nostro angolo, nella nostra regia, sul nostro divano, Franco Bertolucci, che presenterà appunto un'edizione di italiana, giusto? Una traduzione italiana di un testo di Murray Bookchin. Il confederalismo democratico e situazione siriana è un tema che abbiamo affrontato abbastanza spesso negli ultimi tempi su Radio Wombat, negli ultimi tempi perché a parte siamo nati da pochissimo, caro Franco, però è stato un po' anche un punto centrale di questa ultima primavera, visto tutti i fatti che purtroppo abbiamo seguito, soprattutto per quanto riguarda il contorno di Afrin, ancora più che tutta la parte di Kobane e il nord-est della Siria. Quindi, se puoi, prego. Allora, intanto grazie per l'invito. E, tra le altre cose, questo libro l'abbiamo presentato proprio qui alla Polveriera a marzo, proprio con il curatore e traduttore dell'edizione inglese in italiano, che è Martino Seniga, e con la figlia di Bookchin, Debbie Bookchin, che ha curato l'edizione inglese di questa raccolta di testi di Murray Bookchin. Allora, intanto, il libro che è edito dalla BFS Edizioni di Pisa, la casa editrice della Biblioteca Franco Serantini di Pisa. Intanto, perché il nome di Bookchin è ritornato, diciamo, alla notorietà in questi anni, spesso abbinato a quello del Rojava? Teniamo conto che Bookchin è morto nel 2006, è un autore nordamericano, anche se la sua famiglia proveniva dalla Russia, era una famiglia di ebrei russi immigrati negli Stati Uniti. Lui era nato nel 1921. La prima domanda è: cosa c'entra Bookchin con la lotta della comunità del Rojava nella Siria del Nord, un'area indipendente, come sappiamo, sorta nel 2012 dalla disintegrazione dello Stato siriano? Questa area, nota anche come Federazione Democratica della Siria del Nord, come regioni autonome e democratiche e con altre denominazioni. Allora, facciamo un primo ragionamento sul Rojava. Il Rojava è balzato alla cronaca per l'eroica resistenza contro l'ISIS, contro il Daesh, contro lo Stato Islamico, quando ci fu la notizia dell'assedio di Kobane nel settembre 2014 e questa città riuscì a liberarsi grazie alle milizie curde del Rojava e di altri combattenti provenienti anche da diverse parti del mondo, dopo ben 137 giorni di assedio. E il Rojava poi è tristemente noto perché recentemente è tornato a far parlare di sé durante l'offensiva dell'esercito turco, che è eufemisticamente denominata la Moscello di Ulivo. Sappiamo che Erdogan ha scaricato contro il Rojava e contro Afrin il proprio esercito per sradicare quella che lui riteneva un'anomalia di terrorismo. Il proprio esercito e non solo, fra l'altro. Sì, sì, anche le milizie, ovviamente del cosiddetto esercito di liberazione siriano, no? Quelle pagate dall'Arabia Saudita. Allora, come tutti sanno, il Rojava è popolato soprattutto, ma non solamente, da curdi e sono le comunità curde che sono in buona parte protagoniste di questa storia. La maggior parte dei curdi vivono oggi in particolare nel territorio turco, ma anche in altre aree come irachene, nell'area iraniana, in parte nel siriano, appunto in Siria. Si stima che complessivamente i curdi in quell'area, in quelle tre, quattro nazioni, siano tra i 25 e i 30 milioni di persone, cioè un'etnia importante, con una storia alle spalle millenaria. Il ruolo della Turchia. La Turchia è una delle potenze regionali protagoniste di quest'ultima offensiva militare, ma è anche un regime che purtroppo conosciamo, perché è molto noto per la repressione al suo interno, non solo contro le altre etnie, riprendendo una tradizione che il regime turco ha sempre avuto nella sua storia, soprattutto dagli anni della Prima Guerra Mondiale in poi, ma perché è un regime che si è affermato come un regime islamico moderato inizialmente nel 2002-2003, quando Erdogan è salito al potere, ma l'idea del suo stato islamico poi è un'idea che si coniuga perfettamente rispetto a un modello di sviluppo economico che è legato a quelli che sono gli interessi del capitalismo in tutta quell'area, no? E non possiamo scordarci che le guerre che attualmente si sono combattute, ma anche quelle precedenti degli ultimi decenni, non sono guerre fatte per la libertà, per la democrazia, per il benessere di qualcuno, ma sono soprattutto guerre di interesse economico, sono guerre imperialiste e che hanno causato disastri su disastri. Dunque, ritorniamo a Rojava. Perché Rojava è stato attaccato dai turchi? Perché Erdogan insiste a dire che in quell'area ci sono dei pericolosi terroristi? Qual è il pericolo reale che si avanza nel Rojava? In realtà il pericolo reale del Rojava è che è un'anomalia rispetto a tutte le altre territorie, a tutte le altre esperienze che in questi anni ci sono state, anche rispetto alle varie rivoluzioni, che hanno investito alcuni paesi arabi dal 2011 in poi, perché è un territorio gestito con principi laici, con principi democratici, con principi rispettosi delle donne, anzi le donne sono protagoniste di questa esperienza nel Rojava, e che ha mostrato di fronte alla crisi, al collasso dello Stato siriano, come è possibile percorrere una strada di auto-organizzazione territoriale innovativa, appunto democratica, egualitaria e soprattutto innovativa per un territorio che fino a quel momento ha visto solamente affacciarsi violenza, guerra, forme di totalitarismo e forme di fanatismo religioso. Vero. Ricordiamolo, hai detto che principalmente i siriani sono nei territori di questi quattro stati, però i curdi sono sì nei territori di questi quattro stati, però hanno preso parte al modello del confederalismo democratico non esclusivamente i curdi, bensì certo. Le svariate etnie, molti arabi. Sì. Certo, ripeto, l'area, anche perché i flussi migratori legati agli effetti della guerra hanno spostato nel Rojava, all'inizio soprattutto della crisi siriana, numerose gruppi etnici provenienti da diverse aree. Anche quando si è formato il Daesh, dalle aree occupate dall'ISIS dovuti scappare parecchie etnie, fra cui anche gli Yazidi, che sono sempre un'etnia curda zoroastriana, che è stata pesantemente attaccata dall'ISIS, soprattutto nell'Iraq nord-occidentale, no? È famoso l'attacco e l'assedio alla città di Shengal, dove decine di persone sono state passate per le armi i primi giorni dell'occupazione e poi sono state fatte dall'esercito d'occupazione dell'ISIS violenze incredibili nei confronti delle donne, anzi le donne sono state poi deportate nelle città occupate dall'ISIS e addirittura vendute come schiave, subendo violenze incredibili. Molti yazidi sono scappati, quelli che sono riusciti a fuggire sono andati nella parte del nord della Siria, dove appunto c'erano questi quattro cantoni della zona del Rojava, che si erano autoproclamati indipendenti, ma attraverso un processo abbastanza particolare, perché bisogna anche dire che questo tipo di esperienza non nasce dal nulla e da una situazione semplicemente di crisi di guerra o di crisi sociale, nasce attraverso un percorso di dibattito, di confronto all'interno delle comunità curde e non solo, che hanno cambiato il proprio atteggiamento nei confronti della questione della lotta di autodeterminazione. Fino ai primi anni 2000 i curdi, pur divisi nelle diverse aree geografiche che abbiamo elencato prima e aggruppati in diversi partiti con diversi orientamenti, c'erano i partiti filo iracheni, filo iraniani, filo turchi, ce n'erano diversi, ma c'erano anche partiti, chiamiamoli così, rivoluzionari come il PKK, che era su posizioni marxiste-leniniste classiche, diciamo, e l'idea forte che aveva fatto nascere questo partito dagli anni 70 fino agli anni 90 era l'idea di costruire uno Stato nazionale curdo. La situazione cambia nei primi anni 2000, quando soprattutto molti curdi che erano scappati per motivi politici in Europa e avevano assimilato culture e conoscenze dal punto di vista teorico e pratico diverse rispetto al modello, appunto, che dicevo prima del PKK, incominciano a introdurre degli elementi nuovi di ragionamento sulla questione dell'autodeterminazione che hanno un po' rivoluzionato il loro approccio alla questione. In più c'è stato un fatto che uno dei loro leader storici, Öcalan, arrestato nel 1999. Con la complicità italiana, fra l'altro. Certo, sappiamo benissimo come è andata la vicenda, sappiamo benissimo il ruolo di D'Alema che ha avuto in questa vicenda, oltre di altri personaggi del nostro milieu politico italiano, ma d'altronde cosa ci si poteva aspettare da un primo ministro all'epoca che faceva bombardare il Kosovo, voglio dire, anche se veniva dal Partito Comunista lui e aveva una cosiddetta parvenza di pseudo-democratico. Però detto questo, Öcalan, quando viene arrestato e poi attualmente è ancora imprigionato in un'isola, è l'unico prigioniero in questa isola, ha incominciato a ripensare il suo percorso politico e ha incontrato il pensiero di Bucin. Ecco come entra Bucin, diciamo, in questa esperienza del Rojava. E lui ha rielaborato la sua posizione. In che maniera? Ecco, intanto andiamo un attimo a capire cosa c'è all'interno di questa esperienza nuova. Scusate un attimo, prego. Mi sono portato degli appunti e non volevo far dire a Öcalan e ai curdi qualcosa che non dicono, che non è di loro parola. Allora, nel Rojava il progetto comunalista e confederalista democratico che prende vita dalle idee di Bucci, ma poi è stato sviluppato nell'ultimo decennio. Ricordo che Bucin è morto nel 2006 e non ha potuto interloquire, non ha potuto partecipare direttamente a questo progetto. Sono le sue idee che sono state sviluppate. Dicevo, questo progetto che è stato realizzato nel Rojava è una società caratterizzata da piccoli nuclei sociali composti da alcune centinaia di persone che condividono l'organizzazione politica, economica e sociale di un municipio o di un comune. Nonostante lo stato di guerra che caratterizza ancora il Rojava, una parte dei membri di questi municipi, uomini e donne senza distinzioni, lavorano regolarmente all'interno della comunità, in alcuni casi veri e propri comuni, mentre altri sono impiegati in strutture militari e produttive esterne, con cui i municipi mantengono rapporti di interdipendenza. Tutte le decisioni che riguardano il municipio o la comune vengono discusse all'interno delle assemblee popolari, in cui tutti hanno uguale diritto di voto e di parola. Nel caso dell'impossibilità di un accordo complessivo, le decisioni vengono prese a maggioranza e la minoranza è tenuta ad accettare quanto approvato. Le comunità fanno parte di una rete o confederazione di comuni e municipi che costituiscono aggregazioni più vaste da un punto di vista sia geografico che economico. Le comuni e i municipi possono confederarsi tra di loro per governare in modo condiviso aree urbane e rurali, ma possono anche gestire attività produttive e culturali come fabbriche, scuole, istituti di ricerca e produzione scientifica e tecnologica. Ogni municipio elegge i propri rappresentanti, lo ripeto, un uomo e una donna, negli organismi che governano, cioè una parità di genere, le strutture politiche e produttive confederali che hanno anche il compito di progettare strategie comuni e piani di sviluppo a largo raggio. Ecco, questo in sintesi è l'idea di fondo che regge la rete sociale che ha costruito questa esperienza unica, particolare. che fra l'altro è l'unica esperienza appunto che ha saputo conciliare, vedere, coabitare insieme culture invece che fino a veramente pochissimo tempo prima si sparavano. Esatto, e esatto. Di fatto ancora continuano a spararsi lì tutto intorno. Sappiamo bene la Siria e un po' tutto il Medio Oriente in che situazioni sono. Certo, infatti ha dell'incredibile che un'esperienza del genere abbia potuto maturare e svilupparsi, in parte lo si comprende dal collasso dello Stato siriano che ha lasciato vaste aree, soprattutto nel nord, completamente, diciamo, disadorne di qualsiasi controllo, sia sociale che militare, e questo ha permesso questa eccezionalità di spazi. Poi se bisogna anche capire che in quel contesto... Che sì, spazi conquistati comunque, perché sì, conquistati, se non ricordo poi male, tutti quegli spazi erano occupati dal, certo, dal, certo, Daesh. Certo, certo. No, Rojava si è difeso dall'attacco aggressivo del Daesh, come si sta cercando di difendersi dall'attacco dei turchi. Dei turchi è curioso di come però quando si è difeso dal Daesh tutto il mondo ha parlato di Kobane. Mentre ora che Afrin è stata bombardata e sono stati massacrati i curdi dai turchi, nessuno ne parla, perché sì, i turchi sono degli alleati della NATO. È stato sulla prima pagina dei giornali, credo, forse sì, ma una notizia piccolina, il 18 aprile e basta, che era il giorno della caduta di Afrin, se non mi sbaglio. Ma tenete conto che i bombardamenti che i turchi hanno fatto ad Afrin sono gli stessi per intensità, per quantità, che Assad fa sulle città occupate dai suoi antagonisti, dai suoi ribelli, diciamo dai ribelli che si oppongono ad Assad, che lo faccia la Turchia con le armi che gli dà la NATO o gli Stati Uniti, o che lo faccia la Siria di Assad con le armi che gli dà Putin e la Russia, cambia poco. Il problema è il risultato finale, qual è? La distruzione di un paese, la disperazione, la morte, e soprattutto il fatto che ancora una volta passa questa idea che la guerra serve per, tra virgolette, portare un ulteriore miglioramento della situazione. Non mi sembra proprio. L'insegnamento di Afrin è che loro sono riusciti in un contesto di guerra a costruire una società, a costruire delle relazioni sociali, che questo è straordinario in un contesto difficile come quello. La donna, dicevi, ha un ruolo centralissimo, infatti è anche la figura sulla quale più hanno insistito e più si sono accaniti gli eserciti di occupazione attualmente del cantone di Afrin, quello turco e quello jihadista. In particolare imponendo leggi estreme sul ruolo della donna, non, di fatto c'è un controllo per non farle uscire di casa, ecco, perché portino il velo, perché cose che veramente fino a 2 mesi fa erano lontanissime. No, bisogna anche dire che una delle forze del progetto del Rojava, una delle forze più determinate, e non mi riferisco solamente a quei reparti militari composti solo da donne volontarie che sono andate a combattere in prima linea contro il Daesh come contro l'esercito turco, parlo soprattutto sul piano sociale, una delle forze sono state proprio le donne che si sono auto-organizzate fin dai primi anni, stiamo parlando ancora degli anni in cui ancora non c'era la crisi siriana, degli anni precedenti al 2012, si sono organizzate per combattere il patriarcato nell'organizzazione sociale dei propri territori, per combattere lo sfruttamento sessuale, per combattere le violenze sistematiche a cui le donne comunque erano soggette in quel tipo di società gerarchica. Quello che è interessante è che anche loro hanno acquisito dall'idea di Bucin l'idea fondamentale della destrutturazione della società dal punto di vista gerarchico per costruire una società orizzontale. Questa è la novità più grossa, e il fatto che delle donne siano protagoniste in questo contesto ha un valore ancora più alto rispetto a tutti gli altri conflitti che ci sono stati fino adesso, perché ci dà anche la misura della capacità rivoluzionaria del messaggio che sta portando avanti questa esperienza. Rivoluzionaria, sarebbe rivoluzionaria anche per dei paesi occidentali come il nostro, di fatto. Certo, certo, voglio dire, noi siamo più arretrati da questo punto di vista, nel senso che la situazione che abbiamo in Occidente, ora sto parlando in Europa, difficilmente può vedere attuato nella pratica immediata un'esperienza come quella del Rojava. Dico difficilmente perché la situazione di conflitto sociale, di crisi sociale, non ha aperto dei varchi di auto-organizzazione effettiva. Sì, ci sono forme di resistenza, forme di auto-organizzazione, ma a un livello ancora molto più, diciamo, infantile, se vogliamo definirlo così. Non è che le idee di Buccin non siano arrivate in Europa, anzi, queste semmai sono state conosciute anche prima, perché Buccin è conosciuto per il suo grande contributo che ha dato nella teoria nell'elaborazione dell'ecologia sociale negli anni 70-80, è conosciuto perché come filosofo, come intellettuale, si è confrontato già con i movimenti verdi ecologisti negli anni, diciamo, a noi più lontani. Però il problema oggi è che il livello di conflitto sociale, di coscienza politica e sociale in Italia è molto arretrato. Noi sappiamo che il paese è spostato molto a destra, sì, ci sono delle esperienze locali di resistenza, delle esperienze importanti, non le sto a citare tutte, ma le sappiamo tutte, dalla Val di Susa al TAV, a situazioni varie in diverse, però sono tutte molto frazionate e non hanno ancora maturato una vera coscienza di tipo municipalista come intende Buccin. Intendiamo, è chiaro che ogni paese va adattato, perché quello che propone Buccin in teoria non è detto che vada bene per ogni singolo paese, perché ogni processo storico all'interno di ogni paese è assai diverso, sia per i soggetti che vi partecipano, sia per le condizioni materiali, economiche e sociali. Però è chiaro che noi tutti auspichiamo che quello che accade nel Rojava possa essere ripreso, ampliato anche in altre parti del mondo, anche perché comunque la forma di dominio attuale, che noi la chiamiamo globalizzazione, capitalismo del XXI secolo, imperialismo o altro, è ancora imperante, capito? E noi oggi stiamo per attendere la notizia che finalmente abbiamo un governo di centrodestra e molto a destra, diciamo, e certamente la politica che loro adotteranno sul piano economico non sarà certamente una politica che va a favore dei lavoratori o dei soggetti più deboli della società, tutt'altro, sappiamo benissimo dove andrà a finire. Purtroppo lo sappiamo benissimo. Ma tornando al libro, non so, forse ti eri preparato qualcosa, volevi dire? Ma sì, io volevo dire un paio di cose su Buccin, perché di Buccin bisogna anche capire che è un personaggio interessante, perché lui è un uomo del Novecento, nato, ricordo, nel 1921, che ha un lungo curriculum politico, perché lui già a 9 anni era un pioniere nel Partito Comunista Statunitense, poi dopo, quando è entrato, diciamo, nella fase adolescenziale, post-adolescenziale, ha aderito per un certo periodo al trotskismo, poi ha approdato all'anarchismo, a un anarchismo socialista, diciamo così. Dicevo, è un uomo del Novecento che però ha cercato di fare i conti con le ideologie del Novecento. Lui tende la sua idea di confederalismo, di municipalismo libertario, è un tentativo di rivedere nel futuro le teorie dell'Ottocento, proiettate nel futuro ma rimodellate, riconfezionate in un progetto molto concreto. Qual è la forza di Buccin? A parte che lui è stato uno dei primi teorici nella New Left americana, nella nuova sinistra americana, che ha posto il problema ecologico non da un punto di vista semplicemente ambientalista, ma da un punto di vista il problema ecologico come un effetto dello sfruttamento dell'uomo sull'uomo e dell'uomo sull'ambiente, no? E l'ha introdotto come elemento di dibattito, no? È stato uno dei primi a elaborare questo e l'ha fatto anche da un punto di vista dello sviluppo, per esempio, delle città, delle megalopoli, cercando di capire quelle che erano le tendenze gerarchiche del nuovo sfruttamento negli anni 60-70. E lui ha fatto uno sforzo enorme per reinventarsi negli anni 80-90. Dobbiamo dare atto a questo uomo che ha fatto i conti col Novecento, con i drammi del Novecento, anche con i drammi della sinistra del Novecento, che ha cercato di lasciarci in eredità un'idea forte, cioè quella che ancora oggi è giusto ribellarsi, è giusto pensare a una società altra, cioè è giusto pensare ancora che un'utopia concreta è realizzabile. E questa forza, secondo me, che va considerata nel pensiero di Buccin, anche se poi magari il pensiero di Buccin presenta, come tutti i pensieri, dei lati contraddittori, dei limiti, insomma, non sono evidenti in alcune parti, insomma, non è, però è importante questa eredità, insomma. È importante, di fatto mi raccontavi che poco fa che non si tratta semplicemente di una teoria filosofica. No, non vuole essere, Buccin ha cercato nel limite del possibile, poi con tutti i pensatori hanno anche loro difetti, lui non voleva fare una nuova ideologia, non voleva sostituire al socialismo e all'anarchismo il comunalismo No? Infatti lui ha cercato molto di dare un senso pratico, concreto alle sue proposte. Le sue proposte sono da mettere in pratica. Cioè lui si pone un problema. La democrazia rappresentativa, la democrazia borghese ha fallito, lo si vede nelle sue degenerazioni, nella sua corruzione, nella sua violenza, lo si vede in tanti aspetti. Nessuno nega che è sempre meglio una democrazia che una dittatura, ma questo, come la dittatura, sono lontanissimi da qualsiasi idea di società che può essere quantomeno lontanamente giudicata dal punto di vista della libertà e dell'uguaglianza. E lui si poneva concretamente questo problema, cioè la sinistra aveva perso la capacità di fare società, di essere concreta, di proporre qualcosa di realizzabile, e lui ha cercato di dare delle soluzioni. E questo lo sforzo degli ultimi suoi 15 anni, a volte anche controtendenza rispetto, ripeto, alle ideologie del Novecento che hanno dominato. Però ha cercato di farlo in maniera anche originale, insomma, questo gli va riconosciuto, pur con tutti i limiti che vogliamo. Ma come Ocalan è stato arrestato nel 99? Come è arrivato agli scritti di Bucin? Bucin e Ocalan non si sono mai incontrati de viso, non si sono mai incontrati fisicamente parlando. Ocalan ci è arrivato tramite quelle letture che in carcere gli avvocati li potevano portare, libri eccetera, e a un certo punto ha trovato dei libri di Bucin, c'è stato uno scambio epistolare, è stato permesso, molto generico, non molto approfondito, perché la censura carceraria, vi potete immaginare che regime è in Turchia, però Ocalan ha avuto, bisogna riconoscerli, lui è un capo carismatico per i curdi, l'Apo è, come dire, è un mito, no? Insieme ad altri leader, ricordiamo che un altro leader del PKK, che era una donna, Sakine Kansiz, che è stata assassinata a Parigi nel 2013 insieme ad altre due compagne della propria organizzazione, ed era una donna coraggiosa che aveva combattuto, era stata imprigionata, torturata, è stata assassinata sicuramente dai servizi segreti turchi, e la Francia non ha fatto niente per smascherare questo assassinio. Dicevo, Ocalan, come altri leader curdi, nel momento che è stato arrestato e ha visto, tra virgolette, finire l'esperienza che aveva fatto nascere del PKK, si è domandato, ha avuto il coraggio di domandarsi quale futuro doveva avere la lotta del popolo curdo all'interno di quello che era il contesto degli anni, dei primi anni 2000, e quello che poteva essere il suo ruolo. Lui ha avuto il coraggio di ripensare anche criticamente il proprio passato, capire quali erano stati gli errori dal punto di vista ideologico, di approccio ideologico, di pensiero che aveva commesso e che aveva commesso il PKK. Si è scrostato di dosso quell'ideologia ossificata che aveva fatto la fortuna di tanti movimenti di liberazione nazionale negli anni 60-70, ma che ormai aveva fatto il tempo. Lui si è domandato come poter agire politicamente in un contesto difficile senza far perdere la speranza ai curdi di un futuro migliore. Allora, ma tornando al libro, sono traduzioni, giusto? Sì, sì. Il libro è composto da 8 capitoli dove Bucin affronta diversi aspetti, come anche l'aspetto della crisi della sinistra, perché non dobbiamo dimenticarci che la sinistra in generale, e anche in Italia ovviamente, ha subito un tracollo innegabile, no? Di fronte alle sconfitte della seconda metà del Novecento, e il primo interrogativo per Bucin è appunto come superare questo impasse, come superare questa crisi da una parte. E poi gli altri saggi cercano di dare una sistemazione all'idea del progetto di municipalismo libertario e di confederalismo, e sono, ripeto, però è un'antologia di scritti che lui ha elaborato in oltre 15 anni degli ultimi della sua vita, insomma. Bene, allora noi, se non hai altro, ti ringraziamo. Avete sentito Franco Bertolucci ha presentato Il confederalismo democratico e la situazione siriana a partire dalla prossima rivoluzione delle assemblee popolari, dalle assemblee popolari alla democrazia diretta, BFS Editori Edizioni, datato 2017. Grazie, bocca al lupo per la festa. Grazie. Ciao. İstanbul, İstanbul.